Investire informati. Buongiorno e benvenuto, Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. Le ho condito un bel piatto stamattina, grazie. Contento? Molto, molto. Non sono molto. Stata io per la verità. Buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori. Io ho solo riassunto tutti gli ingredienti della ricetta che i mercati ci stanno offrendo in questi giorni. Ci sono già tante domande per lei, dottor Gaudio, all'800240024, perché poi... Sa, gli amici che ci seguono da casa, gli italiani possono leggere quanto vogliono tutti i giornali, ma come dire, orientarsi nelle dinamiche finanziarie di questi giorni è difficile, anche se chiaramente dobbiamo applaudire poi alle buone intenzioni che hanno di cercare di decifrare con la loro testa questi temi così complicati. Poi il tema è passare anche dalla comprensione dei fatti alla traduzione in scelte pratiche di investimento, perché qui poi è tutto un altro paio di maniche. Però volevo cominciare con qualche considerazione con lei, poi sentiremo Alessandro da Genova e Stefano da Milano. Dottor Gaudio, dicevo prima, bastano 15-20 giorni a cancellare con un colpo di spugna un anno finanziario positivo. Con che atteggiamento sta osservando queste giornate? Insomma, che cosa le suggeriscono? Che cosa l'ha colpita di più dei fatti delle ultime settimane? Beh, certamente, come lei diceva, la velocità della correzione è stata una velocità molto importante, perché effettivamente parlare, come stiamo parlando, di ribassi che da inizio dell'anno sono dell'ordine del 12, del 13, del 15%. Pensi che anche la borsa americana, che normalmente, come tutti sanno, la borsa più stabile, più liquida, comunque siamo su discese dall'inizio dell'anno dell'ordine del 10%, decimale più, decimale meno, quindi è chiaro che la velocità mi ha colpito. Devo dire che i mercati in questo momento, perché reagiscono in questa misura così per certi versi un po' nevrotica, poi spiegherò anche il motivo per cui la giudico tale. Sostanzialmente c'è un tema di crescita, quindi i mercati vorrebbero essere rassicurati sul fatto che l'economia mondiale riesce a crescere in maniera equilibrata e soprattutto senza le continue medicine delle banche centrali, perché ecco, questo secondo me è un dato di fondo. I mercati sono saliti, l'abbiamo anche spesso commentato in questa sede, grazie all'aiutino delle banche centrali. Prima c'era la Fed, poi la BCE, abbiamo avuto anche la Bank of Japan in questi anni. Beh, è chiaro che ai mercati piacerebbe capire se dopo che le banche centrali tolgono la mano, come sta succedendo ad esempio negli Stati Uniti, l'economia riesce a crescere con le proprie gambe, con i propri mezzi. È chiaro che mettendo insieme il tema Cina, che sta rallentando, che è stato un pilastro della crescita mondiale in questi anni, con l'economia americana che cresce ma non esplode, beh, chiaro che i mercati cominciano a essere, non dico un po' scettici, però certo, vogliono capire se effettivamente, ripeto, la crescita sottostante è sufficientemente solida. E quindi in questa incertezza, che devo dire è stata anche un po' alimentata, se vogliamo, non solo dal tema petrolio, ma anche dall'incertezza sulle mosse della Fed, ad esempio. La Fed probabilmente ha comunicato male in questi mesi, questa è la mia personalissima Davvero? Impressione. Sì. Perché alzo, non alzo, alzerò tanto, alzerò sì, tre volte. Sì, doveva cominciare ad alzare a marzo dell'anno scorso, probabilmente, mi ricordo. Sì, abbiamo procrastinato sì. L'intervento a dicembre, però esatto. Lo ha detto gradualmente la signora Yellen. Invece per lei l'informativa data al mercato risultava tutto sommato incerta. Beh, secondo me sì, ha creato più incertezza che altro. E quindi adesso non dico che sia uno dei fattori della crisi, perché i fattori, ripeto, sono più di natura macroeconomica fondamentale. La Cina dove sta andando, dove si ferma la crisi del pezzo del petrolio. Però devo dire anche la Fed, dal suo osservatorio così privilegiato, secondo me qualche errore di comunicazione l'ha fatto. Certo. Ogni tanto qualche errore verbale un pochino è stato attribuito anche a Mario Draghi. Vedremo oggi peraltro cosa farà. Esatto, ribadiamo, oggi è una riunione importante. Senza ribadiamo, dubbio. Esatto, c'è il direttivo della BCE. Peraltro Draghi deve parlare anche a Davos, quindi veramente una giornata calda. Volevo rinviare il tema delle banche centrali, magari la seconda parte della trasmissione, però visto che lo stiamo già affrontando le chiedo un'altra cosa, poi darò subito la parola agli ascoltatori. Certamente. Noria Rubini, un grandissimo economista, molto seguito e che peraltro a cui molti hanno riconosciuto anche il merito di aver anticipato la crisi dei mutui subprime, tra l'altro si è tirato addosso anche molti attacchi perché era stato giudicato come la Cassandra dei mercati, poi in realtà in molte cose le aveva azzeccate. Però in un'intervista alla Repubblica proprio di pochissimi giorni fa ha detto: solo l'accordo fra banche centrali eviterà un crollo come nel 2008. Allora, accordo fra banche centrali, che cosa vuol dire secondo lei? Un intervento concordato? Perché mi ricordo che l'ultimo intervento concordato di ribasso deciso da parte di tutte le banche centrali ai tassi di interesse fu fatto solo all'indomani dell'11 settembre del 2001. Mi pare che poi non ce ne sono stati più di quel concordato. Esatto. Ma per lei sarebbe auspicabile? Che significato avrebbe nel panorama degli investimenti? Ma guardi, io sono parzialmente d'accordo, poi naturalmente l'opinione del professor Rubini è assolutamente rispettabile, anzi ben più rispettabile della mia, però credo che in questo momento le banche centrali possano fare fino a un certo punto, anche perché oggettivamente siamo con tassi a zero pressoché ovunque, ecco, al di là del rialzino minuscolo che abbiamo avuto negli Stati Uniti, siamo ancora in un contesto di tassi a zero e se vuole questo è un qualche cosa che preoccupa un po' i mercati, perché tutto sommato trovarsi nel mezzo di una crisi con meno strumenti di prima, proprio perché i tassi più di tanto non possono essere abbassati. È vero che abbiamo rotto il tabù dei tassi negativi, però effettivamente secondo me, diciamo, grandi armi non ne hanno. Io credo che più che altro potrebbe essere ripresa a livello mondiale il tema della politica fiscale più che della politica monetaria, che vuol dire abbassare le tasse, fare un po' di buona spesa pubblica, a mio parere. Questa è un'opinione che ho da tempo, perché noi abbiamo associato al tema della spesa pubblica solo delle concezioni negative, delle impressioni negative. Non ci sarebbe nulla di male di fare una buona spesa infrastrutturale in tutto il mondo, oltretutto indebitandosi a tassi che sono i più bassi di sempre. Quindi i governi che possono farlo, cioè quindi che godono di rendimenti sui mercati molto bassi, dovrebbero pensare seriamente a questo per far riprendere l'economia. Allora, date queste considerazioni di carattere generale, ritornerei invece adesso, dottor Gaudio, sul particolare delle situazioni, certo, dei nostri amici che ci seguono da casa, e molti si sono già messi in fila, in coda per chiacchierare con noi. Noi li accogliamo molto volentieri nel nostro salotto di questa mattina dedicato ai mercati finanziari. Comincerei con Stefano da Milano, che aspetta davvero da un bel po', ha una domanda un po' specifica, adesso vediamo come la posso girare a Vittorio Gaudio. Detto questo, Stefano, peraltro sul tema che lei ci pone c'è una bella analisi stamattina sul Sole 24 Ore, per cui magari la invito anche, se si vuole togliere qualche curiosità e così se vuole andare ad approfondire, c'è anche questo tema specifico. Ci dica buongiorno intanto. Buongiorno, no, io telefonavo proprio sì, per una questione specifica, io ho dei denari che mi stanno dando dei problemi di cuore. Non è comunque in buona compagnia in questi giorni, quantomeno se il mal comune mezzo Gaudio può essere una... così, una consolazione. Ecco qua. Ci dica Stefano. Io telefonavo anche in cerca di orientamento. Io ho un'obbligazione, ahimè, subordinata di Montepaschi che ha perso il 37%. Sì, tutto in questi giorni, sì. Tutto in questi giorni, sì, perché è stata una cosa improvvisa. La questione che mi pongo io è: mi taglio la gamba, elimino la cancrena e perdo quello che perdo, o tiro fino al 2018 sperando che il capitale si recuperi? Grazie Stefano. Allora, adesso io non vorrei mettere in difficoltà Vittorio Gaudio, perché rispondere su un'obbligazione bancaria della banca che è al centro dell'attenzione mondiale in questo momento è difficile, ma era anche abbastanza prevedibile che arrivasse una domanda di questo tipo. Certo. Volevo fare subito una considerazione. Mi pare che le obbligazioni di Monte dei Paschi siano quotate, a differenza delle obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche risolte dal decreto salvabanche di fine novembre, che invece non erano quotate. Mi ricordo male? Certo, certo. Può essere già questa una prima riflessione interessante. Però... le dico, non mi sottrarrei alla domanda. Ottimo. Perché credo che poi, piacere, tutto sommato il risparmiatore, l'ascoltatore abbia legittimo interesse a una risposta. Beh, io credo che ci sia stata molta esagerazione sulle banche italiane ultimamente, anche perché, ripeto, le banche italiane sono state vigilate dalla BCE in questi mesi in maniera molto stretta. Hanno superato tutti gli esami che conosciamo, i famosi SREP piuttosto che gli stress test prima. La situazione dei cosiddetti non performing loans, quindi dei crediti in difficoltà, è nota al mercato da tanto tempo. Quindi voglio dire che l'Italia abbia una situazione di banche solide nel complesso, però con un'esposizione diciamo, a crediti in sofferenza, che è semplicemente la derivata della crisi economica che ha avuto il paese in questi anni. Beh, questo credo che non sia una cosa nuova. Quindi io sono convinto che la stessa Montepaschi può risollevarsi. È chiaro che in una situazione di difficoltà, e questo lo sappiamo, non credo, spero di non espormi troppo, ma diciamo non credo in una possibilità di ripetizione su Montepaschi di quello che abbiamo visto sulle banche, sulle famose quattro banche, ecco, quindi il tema infatti del bail-in eccetera. La Monte dei Paschi è una banca di carattere sistemico, dottor Gaudio? Beh, stiamo parlando della terza banca italiana. Appunto, ecco, quindi, infatti, per cui ecco che ha in pancia peraltro anche un bel malloppone di titoli di Stato, per cui immaginiamo anche duplici e triplici, diciamo, ricadute su un possibile dissesto di questa banca. Però in borsa stamattina vedo che il recupero c'è, sta continuando, oltre il 20% di rialzo, siamo quasi a 64 centesimi per quello che riguarda il prezzo, e peraltro stamattina delle rassicurazioni sullo stato di salute di questa banca sono arrivate anche da Davide Serra, che è il fondatore amministratore del fondo Algebris, che dice: c'è troppo panico, il sistema bancario è solido, io investo sui subordinati, sul debito senior, perché offrono rendimenti molto attraenti, molto interessanti. Chiaramente è un investitore professionale di un certo tipo, non è il nostro Stefano da Milano che ci ha chiamato prima, però insomma questo anche per dire che qualora volesse disfarsi di questa obbligazione perché ha un po' paura che scenda ancora di prezzo, un mercato ce l'ha, liquidità su quel tipo di obbligazione quotata c'è, a differenza delle obbligazioni appunto delle banche, come ribadisco, risolte qualche mese fa. Alessandro da Genova, benvenuto. Buongiorno. Ma stamattina avete tutti il telefono un pochino... Eccoci qua, la sento meglio. Sì. Okay, tanto complimenti per la trasmissione, perché siete veramente bravissime, complimenti, perché ci tenete compagnia tantissimo. Molto bene, grazie. No, davvero, di cuore. Volevo dirvi una cosa, siccome non me ne intendo più di finanza, per cui abbiate pietà di me della domanda che faccio. Guardi Alessandro, noi non solo abbiamo pietà, abbiamo il più grande rispetto, perché non è che in Italia tutti quanti adesso dobbiamo metterci come dei pazzi a studiare la finanza. No, infatti, soprattutto se mi date un consiglio pratico, il mio, cioè questo qua è la mia cosa, io ho un conto corrente in Banca Intesa, è superiore ai 100.000 euro, siccome ho paura per il buy hill di questa cosa qua delle banche, così io volevo comunque scendere sotto quella cifra lì, cioè, però cosa faccio? Di Firenze faccio due conti, faccio un libretto postale, che ne so, nominativo, metto una cassetta di io non so cosa fare, tutti mi dicono vai nelle banche, loro ma non c'è pericolo, io in realtà ho pericolo, cioè ho paura, perché sono soldi guadagnati da una vita e ho dei titoli di Stato che ritengo lì perché so che sono sicuri, per cui non danno problemi, è una rendita buonissima, e però vado sopra con la cifra del conto corrente. Certo. Io vorrei tenermi sotto per non correre il rischio che comunque sopra i 100.000 euro le banche possono usufruire di questa di questo bail-in. Allora qua. Alessandro, però praticamente certo, mi date proprio un consiglio pratico da fare, cioè, perché io non voglio fare nessun tipo di investimento, diciamo, vuole essere strasicuro lei, insomma i suoi soldi li vuole vedere lì, immediatamente liquidabili, perché per una persona che investe che ha solamente un conto corrente con questa cifra, è evidente che ha un obiettivo abbastanza chiaro di gestione di questo denaro, poterlo prendere in qualsiasi momento. Allora, detto questo, prima considerazione, dottor Gaudio, sto costringendo a parlare di altre banche, abbiamo la prima banca d'Italia, per cui sul bail-in penso che io credo che Messina non ha in questo momento nessuna preoccupazione di dover gestire. Penso proprio di sì, l'ho visto in intervista ieri da Davos, mi sembrava tranquillissimo. Quindi... Era Davos ieri lei? Sì. No, l'ho visto tramite online, ecco, non ero Davos, ero sugli screen di mercato purtroppo. No, distinguerei però i due problemi. Allora, il tema del bail-in su Banca Intesa, francamente, mi sembra proprio assolutamente da lasciar perdere come ipotesi. Ecco, io mi porrei invece un problema più serio, cioè quindi quello se valga la pena di tenere in questo momento tutti sti soldi in conto corrente, al di là dell'aspetto bail-in 100.000 eccetera, ma proprio in termini di opportunità di investimento, nel senso che oggi un conto corrente sappiamo quanto rende, cioè quindi rende il nulla. Io credo, sentire anche la voce del nostro ascoltatore, mi sembra una persona giovane, in piena forma e salute, io credo che possa anche pensare a una pianificazione del proprio risparmio con una logica che non sia così prudenziale e anche deprimente per in termini di opportunità, perché conto corrente oggettivamente non rende nulla. Io credo che acquistare prodotti finanziari, ad esempio porto a casa il mio interesse, fondi comuni che sono anche oggettivamente separati dalle vicende della banca che li colloca e quindi che sono assolutamente solidi. Poi uno può comprare a seconda del profilo di rischio dei prodotti più o meno, diciamo, di medio lungo termine o no, quindi prodotti magari più legati alla liquidità, orizzonti temporali più brevi, ecco, però tenere tutto in conto corrente o diciamo la grande parte del risparmio in conto corrente mi sembra veramente penalizzante. Quindi al di là del discorso bail-in, solidità di Banca Intesa che non è messa assolutamente in discussione. E poi magari, ecco, fare anche un check-up delle proprie esigenze finanziarie. Io ho capito che, come dire, questa persona che ci ha chiamato è un po' emotiva, lui dice: io non ne capisco niente, pertanto non ho nessuna intenzione di posizionarmi sui mercati finanziari, ma immagino che abbia obiettivi di vita che saranno legati, non lo so, alla crescita dei figli, ad un obiettivo da raggiungere fra qualche anno, non dico addirittura alla pensione, ma magari ampliare la propria abitazione, comprarne una seconda proprio per la famiglia, per cui magari può legare anche la gestione di questo denaro al raggiungimento di un determinato obiettivo, e qui entra in gioco anche la capacità di intercettare un buon consulente finanziario che ti accompagni in queste scelte. Comunque vediamo, insomma, vedremo poi che riflessioni ha portato a casa il nostro amico che ci ha chiamato. Intanto 800 24 00 24, continuate a prenotare i vostri interventi. Faccio una cosa, prendo la domanda di Sergio da Cremona, poi io racconto, intanto aggiorno gli ascoltatori sull'andamento odierno dei mercati e delle borse in Europa, e poi rispondiamo a Sergio, facciamo anche altri commenti sui fatti del momento con Vittorio Gaudio. Benissimo. Dopo la nostra pausa. Sergio, benvenuto. Pronto? Eccoci. Niente, io sto versando per i nipoti, ho 79 anni, mensilmente su piani di accumulo, e come consiglio della banca, naturalmente questi fondi sono azionari. Mm-hmm. Perché i nipoti sono ancora giovani, quindi mm-hmm. adesso volevo sapere, non so, continuo oppure vale la pena ridimensionare, certo, questi fondi e ricollocarli su fondi non azionari, non lo so, ecco. Signor Sergio, lei è il nonno che tutti vorremmo avere, quindi esatto, lei è il campione del risparmio, per cui continui così. Io credo che questo suo intervento andrebbe ripetuto, non so se al Sole 24 Ore, ma magari sotto altri media tutti i giorni, perché lei è il campione del risparmio, quindi continui, esatto, così. E soprattutto sta, come dire, indirettamente approfittando della situazione negativa, certamente, sui mercati in questi giorni, perché lei sta comprando un sacco di quote di questi fondi comuni, e quindi quando il mercato azionario ripartirà si troverà invece un valore aggiunto che inconsapevolmente ha agganciato, no, dottor Gaudio? Assolutamente. Cuore e denari. Eccoci ritrovati insieme ad Investire Informati questa mattina con Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi. Investire Informati è la nostra scuola del risparmio del giovedì, e questa settimana direi che casca proprio a pennello, calza a pennello, perché chiaramente abbiamo dovuto fare quest'oggi anche una puntata speciale dedicata ai mercati finanziari per cercare così di orientare in questa parte del palinsesto di Radio 24 i nostri ascoltatori che osservano con attenzione l'andamento dei mercati. Noi li invitiamo sempre a farlo, di non manere distaccati da queste dinamiche anche quando sono di difficile comprensione, perché poi abbiamo appreso negli ultimi anni di questa crisi drammatica dalla quale ancora non siamo usciti del tutto, che anche quando un fatto finanziario che accade molto lontano da noi ce lo ritroviamo bellamente anche nel nostro portafoglio, no, dottor Gaudio? Come accadde nel 2007-2008 con la crisi dei mutui subprime. Erano i mutui rischiosi americani che non venivano rimborsati, ma poi nel giro di un anno e mezzo quella vicenda, quella situazione è finita anche, come dico io sempre, anche nel mio mutuo, per cui forse è bene che, anche se sono difficili queste notizie da decifrare, che ci impegniamo un pochino a cercare di capirle. Non è facile neanche per noi fare questo lavoro, questo lo dobbiamo dire, no? Ma devo dire, abbiamo imparato, ecco, lei lo diceva molto bene, in questi anni, come la globalizzazione, che è questo parolone di cui ogni tanto si discute, effettivamente incide molto anche sui nostri risparmi, perché lei citava il tema subprime. Qualcuno mi ferma, mi dice: ma cosa c'entra il mio mio risparmio con la Cina. Io non sono investito in Cina, dov'è il problema? È che se rallenta la Cina, picchia. Ferragamo non vende le borse là. Esatto, stiamo parlando della seconda economia mondiale, stiamo parlando di uno dei più grossi investitori in titoli del tesoro americano, stiamo parlando del paese con le riserve valutarie più importanti, stiamo parlando del paese che ha comprato beni di lusso in Europa, le BMW piuttosto che le auto di lusso, piuttosto che le cravatte e le scarpe di Ferragamo. Quindi certamente il mondo è globalizzato, è connesso e quindi dobbiamo abituarci a questa realtà. Allora, intanto 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. C'è qualche ascoltatore che è un pochino, non dico indispettito, ma che osserva un po' piccato i commenti che abbiamo fatto prima su Monte dei Paschi, dicendo ci si va bene anche Lehman Brothers, era too big to fail, troppo grande per fallire. Allora però vale la pena anche, dottor Gaudio, magari ricordare che Lehman Brothers era una banca d'affari. Le banche italiane di cui parliamo noi sono banche che hanno anche come dire, una natura commerciale radicalmente diversa rispetto a quella americana fallita il 15 settembre del 2008, e non è una differenza di poco conto. Io continuo a ritenere il sistema delle banche italiane un sistema solido, che oltretutto i problemi che ha avuto e che continua in parte ad avere sono legati proprio a una crisi economica, esatto, comunque a un rallentamento dell'economia. E quindi il fatto che paradossalmente le banche italiane hanno fatto, al contrario di tante banche non solo in America ma anche in Europa, il loro lavoro, quello di prestare all'economia. E poi possiamo anche lamentarci sulla dimensione, se l'hanno fatto troppo poco o se doveva essere fatto di più. Però certamente il tema dei non performing loans, quindi delle sofferenze, è dovuto proprio a un collegamento molto stretto tra il sistema bancario italiano e il sistema produttivo, le aziende, il territorio. Quindi sotto questo profilo, ci picchia la dimensione e la natura delle banche italiane è profondamente diversa, come lei diceva, da banche d'affari o banche speculative. Ricordiamoci che Lehman, ai tempi in cui fallì, aveva una leva che era quasi di 40 volte. Ecco, quindi stiamo parlando di banche che facevano veramente un altro mestiere rispetto alle banche ordinarie italiane. Allora, intanto forse valeva la pena completare il ragionamento che abbiamo fatto a beneficio del nostro nonno che ci ha chiamato prima, no? Per spiegare anche ai nostri ascoltatori che magari in questo momento hanno un pochino di risparmio e vogliono cominciare ad accarezzare l'idea di avvicinarsi al mercato azionario facendolo gradualmente proprio con lo strumento del piano di accumulo. Il nostro nonno di prima lo sta già facendo per i suoi nipoti e, anche se lui non ha ben capito come funziona, si è spaventato dall'andamento dei mercati, addirittura è tentato dal chiudere un investimento di questo tipo per posizionarsi su dell'altro che considererebbe più sicuro. In realtà lui può approfittare della situazione di questi giorni e ne potrebbe vedere risultati fra qualche anno. Dottor Gaudio, come spiegherebbe ad un nonno che non sa nulla come funziona un PAC? Certamente il PAC è lo strumento migliore proprio per approfittare di queste fasi cosiddette di volatilità. Cosa vuol dire volatilità? Quindi di variazioni molto importanti dei prezzi. Perché? Perché io con la stessa cifra mensile, perché questa è una cifra che è prefissata all'inizio, posso acquistare via via che il prezzo di uno strumento finanziario scende una quantità maggiore di questo strumento, proprio perché il valore di questo strumento è diminuito, quindi ne posso comprare di più. È come se io avessi una cosa che vale 5 e ne compro 10 pezzi. Con la stessa cifra, se il prezzo di questo strumento finanziario va a 3, ne posso comprare di più. E quindi alla fine il prezzo di carico, diciamo il costo di questo investimento nel tempo va a diminuire, e quindi mi trovo poi alla fine effettivamente un investimento più efficiente che dà dei risultati maggiori. Speriamo insomma di aver rassicurato il nostro nonno, che abbiamo già detto insomma magari ce ne fossero tanti così, credo che ce ne siano tanti, in Italia, esatto, perché adesso i genitori sono un po' più in difficoltà. La logica di lungo termine che è sempre premiante. 800 24 00 24, continuate a prenotare i vostri interventi. Ancora un secondo prima di sentire Filippo dalla provincia di Novara, perché volevo ritornare un po' sulle preoccupazioni legate tuttavia alla crescita economica, che è il grande sottostante problematico alle vicende finanziarie di questi giorni. Il Fondo Monetario Internazionale proprio un paio di giorni fa ha espresso, dottor Gaudio, la sua preoccupazione rivedendo al ribasso le sue stime per l'economia globale, e ha dato questa indicazione il Fondo Monetario da Washington: Cina, petrolio e Federal Reserve, quindi Banca Centrale Americana, possono far deragliare la ripresa. Le chiedo un commento, ma che 2016 dobbiamo aspettarci di vivere, secondo lei, se le avvisaglie che abbiamo già visto in questi giorni sono anticipatrici, insomma, di un anno movimentato? Beh, certamente, come accennavo prima, la crescita mondiale è deludente rispetto agli strumenti che sono stati utilizzati in questi anni per farla crescere. Ecco, pensiamo, ripeto, al fatto che sono stati stampati migliaia di miliardi di dollari, ad esempio negli Stati Uniti, per creare delle condizioni migliori dell'economia. Alla fine abbiamo un'economia che viaggia poco sopra il 2% di crescita, quindi oggettivamente un po' di delusione comprensibile. Da lì a parlare di una 2008 piuttosto che di una recessione globale mi sembra, secondo me, un po' troppo. Certamente il tema Cina, qual è il tema Cina? Al di là della dimensione dell'economia che abbiamo richiamato prima, è anche un po' l'opacità, quindi il fatto che sia un'economia che si capisce poco, è un'economia che si è avvicinata agli standard occidentali di mercato, di valutazione, di reporting, direi in maniera veloce ma anche recente. E quindi c'è un po' di sfiducia sul fatto che i numeri che vengono sulla crescita cinese siano poi alla fine del tutto veritieri. Questo indubbiamente è un tema. Abbiamo visto questo 6,9 di crescita l'altro giorno, proprio è stato dichiarato, e qualcuno ha alzato un po' le spalle, diceva 6,9 sarà vero, non sarà vero, esatto, sarà il numero giusto, eccetera. E quindi è chiaro che questo induce ulteriore incertezza. Io credo che sarà un 2006 di crescita modesta, 2016, sì. 16, chiedo scusa, di crescita modesta, e questo si rifletterà anche probabilmente su mercati che nella migliore delle ipotesi faranno poco. Io credo che nel 2016 sarà già una buona cosa avere dei mercati azionari che a fine anno, come dato complessivo, cioè da gennaio a dicembre, portino il segno più, quindi sarà un anno abbastanza faticoso, certo. Devo dire anche l'anno anche scorso è stato bisogna tale. Trovare un equilibrio anche sul fronte petrolifero, che è un elemento di disturbo non indifferente. Veramente importante, anche perché dobbiamo capire se ad esempio questo numero magico che si cita in questi giorni, il $25 per barile, ieri ci siamo arrivati abbastanza vicini, sì. Adesso siamo a 26 e 25 in questo momento, beh, può essere diciamo il pavimento su cui poi si crea un equilibrio. Io credo che non dovremmo essere effettivamente lontani da un punto di equilibrio per il prezzo del petrolio, e questo dovrebbe dare respiro di breve e medio termine ai mercati. Allora, le faccio prendere 20 secondi di pausa, dottor Gaudio, perché se dalla regia di... Non ho detto che peraltro io oggi sono a Roma con i miei amici che mi seguono da qua, che poi saluterò alla fine. Valerio Rocchetti già lo vedo molto pimpante in regia, mentre il dottor Gaudio è a Milano, però insomma anche se siamo vicini ma lontani o lontani ma vicini, posso fare il domandone di oggi. Così anche alleggeriamo un pochino questo clima di preoccupazione legato all'andamento dei mercati di questi giorni. Oggi rivediamo un pochino di sereno, ma io volevo chiedere agli amici che ci seguono da casa, che si appassionano delle vicende finanziarie: vi ricordate qual è stato il guadagno del 2015 di Piazza Affari, che è praticamente stato completamente azzerato dall'andamento negativo di borsa di questa prima parte del 2016? Naturalmente, se volete che apriamo la libreria e la biblioteca di Cuore Denari, ci dovete rispondere all'800 24 00 24. Accontentiamo solo gli ascoltatori che chiamano in diretta. Qual è stato il guadagno 2015 di Piazza Affari, che è già stato azzerato in questa prima parte del 2016? Intanto c'è Filippo dalla provincia di Novara, che saluto. Filippo, benvenuto. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Che complimenti per la trasmissione, mi permettetevi di ringraziarvi per il servizio. Molto io bene. Intendevo chiedere, in pratica uno strumento tecnico come il conto corrente, che viene tenuto in saldo superiore a 100.000 euro, magari solo per alcuni giorni in attesa di RID o altro, sì. Può essere coinvolto nel bail-in o ci sono magari delle tempistiche che prevedano magari il saldo per... Allora Filippo, ecco, una bella domanda questa sulle tecniche di funzionamento del bail-in, perché credo che conti, dottor Gaudio, ma forse qui dovremmo anche andare a cercare questa informazione precisa, la media di giacenza sul conto corrente in un anno. Certo. vero? Certo, correttamente. Quindi, ecco, quindi insomma Filippo deve verificare poi se nell'anno in media il saldo è stato mediamente superiore Io, ai 100.000 euro. Posso aggiungere, però sì. Mi sento, io capisco il tema sì. Che è un tema che è stato sì, notevolmente fatto. Cavalcato mediaticamente. Noi intanto siamo contenti che tutti abbiano più di 100.000 euro sul conto però corrente. Però effettivamente sono sorpreso da questi timori, perché sì. Adesso francamente stiamo parlando di situazioni, soprattutto ecco, se siamo su banche solide, importanti come la gran parte delle banche italiane, io credo che francamente questo tema non si ponga. Ecco, io vorrei ha ragione, dottor umilmente Gaudio, dare sa, anche questo tipo di... La questione delle banche risolte a fine novembre brucia ancora un po', sicuramente, per cui ancora dobbiamo un po' tranquillizzare. No, anche perché dobbiamo ricordarci di una cosa anche fondamentale, ammettendo il tema del bail-in su una singola banca, ecco, prima di andare a colpire il correntista, beh, ci sono parecchi esatto. Altri strumenti, no? Per coprire la perdita, quindi prima ricordiamo l'azionista, poi l'obbligazionista subordinato, poi l'obbligazionista senior. Ecco, prima di arrivare al correntista, devo dire, il passaggio è piuttosto lungo, quindi io mi sentirei di rassicurare anche nell'ipotesi peggiore, che il correntista è proprio l'ultimo a essere colpito. Esatto, che vadano tutti a caccia di quei 2 euro che sono sopra i 100.000 del nostro ascoltatore. Francamente, esatto. Bene, intanto però è tempo di sentire il traffico, dottor Gaudio. Andiamo un po' a sentire cosa succede sulle strade italiane. Cuore e denari. Sigla del nostro rischia tutto versione cuore e denari, il nostro domandone di oggi di Investire Informati: qual è stato il guadagno del 2015 di Piazza Affari, che è stato così crudelmente bruciato in questa prima parte del 2016, completamente azzerato? 800 24 0024, il numero verde per intervenire, lo dovete fare in diretta se volete che apriamo a vostro vantaggio la biblioteca di Cuore e Denari. Con noi per commentare i fatti finanziari del momento Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi, e poi naturalmente le tante domande degli ascoltatori. 800 24 00 24, ancora insieme fino alle 12. Riccardo da Roma mi dà un bell'assist per andare ad introdurre anche l'altro tema che peraltro è molto caro a Vittorio Gaudio: vivere in questa epoca di tassi zero sui titoli di Stato. Riccardo, benvenuto. Riccardo, c'è? Sì, ci sono. Eccoci, ci dica. Allora, io volevo fare una domanda, relativamente appunto al momento critico che stiamo tutti passando e quindi prendere la giusta decisione. Ho, secondo me, un bravo consulente finanziario, almeno lo ritengo tale, e ho un pacchetto di gestori internazionali, faccio alcuni nomi, Schroeder, Darta, Pictet, sì. Allianz, eccetera. Quindi questi soldi, è vero che sono un mix tra obbligazioni e azioni, tendenzialmente 70-30, però vedo che l'impatto comunque c'è. Se faccio E certo, sta scendendo tutto, Riccardo. Sì. Esatto, un conto percentuale, un 7-8, anche 9%, rispetto, la risposta potrebbe essere il 14% dell'anno scorso, gliela do io. Adesso in diretta Riccardo, così a tradimento risponde. Senta, le voglio però chiedere una cosa: da quanto tempo lei ha questi investimenti? Perché un conto allora, è averli presi 6 mesi fa, un conto è avere un portafoglio già attivo da 4 anni. L'abbiamo aggiustato 8 mesi fa. 8 mesi fa l'abbiamo aggiustato un po', abbiamo cambiato qualche gestore, però il discorso di fondo è mantenere calma, come tutti diciamo, però mantenere calma quando si hanno solo quei soldi è un pochino difficile, certo, quindi c'è bisogno di questi esperti che ci danno una mano. Quindi una pacca sulla spalla e una camomilla. Esatto. Ho questo tipo di investimento, l'investimento che può essere classificato con un rischio, seppur calando meno delle azioni, ma sicuramente cala, è da stare fermi e aspettare nonostante la crisi internazionale, nonostante la non crescita, nonostante la Cina, nonostante tutto quello che sappiamo. Certo. Riccardo, però... allora intanto dalla prestazione percentuale che lei ci ha dato, lei ovviamente si è imbarcato di tutte le perdite di questa prima parte dell'anno, meno 9% ci diceva, per cui anzi forse ha fatto pure meglio del mercato. Ha in portafoglio, dottor Gaudio, dai nomi che ci ha fatto, i migliori gestori mondiali, per cui già questo dovrebbe essere garanzia, come dire, di ottima gestione del portafoglio. Sto fermo, rivedo, lui ha rivisto 8 mesi fa, riaggiustato il suo portafoglio, forse un'altra piccola manutenzione adesso potrebbe farla. Detto questo, non mi pare una situazione, alla luce di quello che è successo in questi primi 20 giorni, la situazione forse dei suoi fondi non appare così... Ha fatto un po' meglio del mercato, se, se ho ben capito, il portafoglio è un portafoglio bilanciato. Sì, 70-30. Esatto, è chiaro che la parte 30 in azioni, se ho ben compreso, è quella che imprime la volatilità al portafoglio complessivo. Quindi il fatto che uno dice, vabbè, io ho relativamente poche azioni e ho più obbligazioni, in verità però quel 30%, soprattutto in fasi come queste, è quello che... determina in maniera preponderante l'andamento del portafoglio complessivo. Quindi quello bisogna tenerne conto, perché molto spesso quando uno dice io ho un portafoglio con una caratteristica moderata perché ho solo il 30%, solo tra virgolette in azioni, va detto che questo è un ragionamento che vale in media. Indubbiamente quando abbiamo fasi così concitate come quella che stiamo vivendo, è evidente che anche questo 30% può effettivamente influenzare in maniera molto, molto significativa. Ecco, io credo, ripeto, ritorno a quella che con grande modestia la mia personale previsione per quest'anno. È chiaro che quest'anno è un anno che probabilmente darà poche o soddisfazioni medio poche all'investitore. Perché? Perché l'azionario vivrà una fase ancora di volatilità, secondo me, un po' tutto l'anno, quindi con magari anche forti rimbalzi, quindi ripresa al rialzo, come a mio parere potrebbe essere anche possibile tra poco, data la correzione così importante che abbiamo vissuto nella prima parte dell'anno. Però sarà un anno abbastanza, ripeto, con una forte variabilità dei corsi sulla parte azionaria. Sulla parte obbligazionaria sappiamo che siamo, diciamo, a un livello di rendimenti piuttosto bassi storicamente dato, quindi è chiaro che non è un anno dove ci si può aspettare appunto dei ritorni particolarmente importanti. Questo bisogna metterlo in conto, ci sono anche anni come questi, però ecco, l'alternativa qual è? Chiudo tutto. Benissimo, allora pensiamo chi è che nel 2008 o nel 2009, per timore della crisi finanziaria, ha chiuso tutto. E bisogna vedere poi che cosa fare e soprattutto quando rientro sui mercati. Perché se poi commetto l'errore che vendo sul panico, sulla difficoltà, sui giornali che gridano magari certe notizie, e poi non rientro più e rientro quando magari la situazione si è completamente risolta, attenzione che i mercati anticipano. Posso commettere l'errore di vendere nel 2009 proprio perché c'era una situazione molto, molto difficile anche a livello di sensazione sui mercati, e poi vado a riprendere magari l'investimento azionario nel 2013 o nel 2014, come spesso ci è capitato di vedere. Ecco, questo è un modo sbagliato di condurre la pianificazione dei propri investimenti, perché vendo sui minimi magari vado a comprare sui massimi. Sì. Questo succede spesso, purtroppo. Senta, dottor Gaudio, sul fronte quindi, anche in virtù del ragionamento che ci ha fatto fino a questo momento, dell'educazione finanziaria, il grande tema del momento anche per quello che riguarda l'approccio, la conoscenza delle dinamiche dei mercati e gli italiani, cosa ci insegna questa crisi di questo primo frangente del 2016? Ma io credo, guardi, certamente la crisi che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, secondo me, è anche figlia dell'enorme finanziarizzazione che c'è sui mercati. Quindi con flussi di denaro molto importanti che sono in giro per il mondo, che quindi hanno questa necessità di trovare dei porti e dei rendimenti anche di breve termine. Questo vediamo che certi movimenti vengono veramente appesantiti e resi ancora più forti da questi movimenti molto veloci degli investitori internazionali, che devono tener conto di orizzonti che purtroppo sono sempre più brevi. questo è un tema, se vuole, un pochino più strategico di lungo periodo, ci insegna che però bisogna veramente restare calmi e soprattutto fedeli a quelle che sono le esigenze e i bisogni con cui ho impostato il mio investimento. Se io ho un investimento a 10 anni, per non parlare del caro ascoltatore che abbiamo sentito prima che investiva per i nipoti, ma se ho un investimento ad esempio a 10 anni, non è una crisi di un mese che deve cambiare le mie prospettive di investimento, se no sbaglio tutto. L'ultima telefonata di oggi che mettiamo in onda è quella di Moreno dalla provincia di Lucca, che risponde al nostro domandone: quanto ha guadagnato Piazza Affari nel 2015? Ed è stata bravissima a bruciare tutto in questa prima parte del 2016. Moreno, buongiorno, grazie. Buongiorno, buongiorno. Velocissimo. Moreno, dove è finito? Sì. Mannaggia, ma stamattina... Qui. Eccoci qua, ci dica. Eccolo. C'è stato un incremento del 100. Ecco, vabbè, io so che lei ha dato la risposta giusta, anche probabilmente gli ascoltatori l'hanno persa. 14% circa, quest'anno ha già bruciato il 16%, quindi è andata persino in negativo, però Moreno si guadagna l'applauso di Cuore e Denari, soprattutto il nostro libro, quindi visto che avete questa buona volontà di chiamarci, eccetera. Volevo velocemente rispondere a un ascoltatore che scrive: sono proprio curioso di sapere quale percentuale hanno le sofferenze bancarie italiane fra investimenti sbagliati in borsa, prestiti e finanziamenti a private e imprese, un po' polemico, ma guardi, il dato è assolutamente pubblico ed è anche oggi sul Sole 24 Ore, in questo pezzo di Vito Lops, che dice che insomma complessivamente le sofferenze e gli incagli delle banche italiane ammontano a circa 350 miliardi di euro e sono il 16,7% degli impieghi bancari. Dottor Gaudio, ci sentiamo presto con lei, spero. Sicuro, ci conto. Grazie. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Per essersi reso disponibile ai nostri ascoltatori, noi intanto con Cuore e Denari naturalmente ritorniamo domani, auguro a tutti, grazie a Valerio Rocchetti qui a Roma che mi ha assistito in diretta, grazie a Marco da Roma, credo che ci sia Carmelo Lauricella in diretta, in assistenza tecnica, a domani, buona giornata.